Focus Economia. Con Deborah Rosciani. Una manciata di secondi alle 17.08. Buonasera a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Focus Economia, la prima puntata dell'anno. Speriamo che anche questo non sia un segnale, cioè il fatto che lo conduca io, un segnale di questo anno bisestile che insomma già a cui molti guardano con un po' di preoccupazione, anche a giudicare da quello che è successo oggi sui mercati. Qualcuno attribuisce probabilmente anche questa prestazione degli indici internazionali a questo anno, che ha tutte le sue peculiarità. E allora andiamo per ordine, quali sono i temi di cui parleremo questa sera? Ovviamente un lungo approfondimento sarà dedicato alla prima giornata dell'anno dei mercati finanziari. Se il buongiorno si vede dal mattino, se consideriamo appunto che è pure un anno bisestile, allora davvero qua i gufi quest'anno avranno di che divertirsi. La giornata è partita con il crollo della borsa cinese, con il calo molto marcato di quella giapponese. L'Europa sta andando malissimo e sta avvicinandosi peraltro alla chiusura, anche peggiorando la sua seduta. Wall Street naturalmente non può mancare a questo appello e va molto male. Adesso vi faccio un riepilogo anche delle variazioni percentuali degli indici mondiali, ma insomma ci sono tante ragioni per cui questo anno parte in maniera così quasi rovinosa per le borse internazionali. Ancora una volta i mercati, gli analisti, gli investitori, gli economisti concentrano l'attenzione sul rallentamento economico cinese, che a quanto pare ancora non ha mostrato tutta la sua potenza negativa. L'attività manifatturiera di dicembre, che è stata per la verità comunicata qualche giorno fa, ha mostrato una nuova discesa. Per il decimo mese consecutivo il dato in contrazione è negativo, e quindi questo stamattina ha determinato, a quanto pare, almeno secondo l'interpretazione di cui abbiamo letto su tutti i siti, su tutti i giornali, e questa è la motivazione che sta dietro alle vendite che si sono scatenate stamattina presto appunto in Cina. Per fortuna peraltro che ci sono anche le misure di controllo dei mercati che sono state decise mesi addietro dalle autorità di regolazione del mercato cinese, e che ha portato gli indici appunto cinesi a fermarsi quando scendevano di circa il 7%, perché altrimenti magari la perdita sarebbe stata anche più consistente. Ne parleremo a lungo quest'oggi, sia per cercare di dare una lettura su questo effetto molto pesante che c'è anche in tutta Europa, quindi evidentemente il contagio si può manifestare ed è evidente che la crisi cinese non si limita solamente a quell'area. Cercheremo appunto di capire se è una fase di una giornata di assestamento per dar modo anche agli operatori internazionali di trovare delle occasioni di acquisto, di fare un po' di pulizia sui prezzi o che cosa. Cercheremo di capire appunto se invece c'è qualche ragione più profonda rispetto a questo andamento di questa prima giornata dell'anno. Sullo sfondo naturalmente non possiamo dimenticarci che c'è anche la nuova crisi in alcune aree molto delicate, cioè la rottura delle relazioni diplomatiche fra Iran e Arabia Saudita, che chiaramente hanno pure un peso sullo scenario finanziario internazionale, se non fosse che sono due dei paesi che appartengono all'OPEC, il cartello dei maggiori paesi produttori appunto di petrolio. E anche qua la situazione si fa di ora in ora più delicata, e anche questa chiaramente condiziona con qualche preoccupazione anche l'andamento dei mercati. Ci soffermeremo un po' anche sui fatti italiani. Oggi inevitabilmente avevamo una bella notizia da raccontare, quella della quotazione in borsa a Piazza Affari appunto di Ferrari. Questa mattina a Palazzo Mezzanotte, in borsa italiana appunto una cerimonia in pompa magna con i vertici della Fiat, quindi Sergio Marchionne, John Elkann, c'era Raffaele Gerusalmi, amministratore delegato della borsa italiana, che non poteva non dare il suo benvenuto a questa cerimonia. Poi naturalmente ha fatto una capatina anche Matteo Renzi, che ha colto l'occasione anche per tornare a commentare un po' la situazione economica italiana. Come sapete, lui non ci sta assolutamente a dare ragione a tutta quella corrente di chi non vede con convinzione la ripresa economica italiana. C'è naturalmente questo nuovo, chiamiamolo così, anche battibecca a distanza con Eurostat, che ha fatto un punto della situazione fra i paesi europei su la situazione pre-crisi. Ha fatto un confronto Eurostat, era stamattina su tutti i giornali, su quella che è la situazione di ripresa economica delle principali economie dell'Eurozona dalla fase appunto pre-crisi, da prima del 2008. e il punto preso era il tema, come dire, di riferimento era la produzione industriale di questi paesi, e l'Italia a quanto pare Cenerentola d'Europa, perché dai picchi massimi toccati nell'aprile del 2008 siamo ancora sotto su questa voce di intorno al 30%, mentre le altre economie hanno recuperato molto di più. Quindi faremo un'analisi anche su questo, per capire che cosa manca ancora all'appello dell'Italia, appunto, per rimetterla in moto in maniera significativa. Dicevamo invece, per quello che riguarda, scusate, ho fatto il piccolo inciso su Renzi, sul tema Ferrari-Fiat. Allora, Ferrari questa mattina ha fatto un po' fatica ad entrare in negoziazione, è andata in asta di volatilità, poi ha perso circa il 4%, ha recuperato tutto, adesso è addirittura il secondo miglior titolo di Piazza Affari, ha fatto anche qualche capatina in territorio positivo, ma naturalmente in una giornata in cui Milano perde più del 3%, e comunque Francoforte fa meno 4,5%, è chiaro che anche Ferrari fa fatica a salvarsi. In ogni caso, il prezzo di quotazione di stamattina era più o meno allineato al prezzo di chiusura di Wall Street di settimana scorsa, per cui ecco, il mercato italiano accoglie in questa maniera questo debutto. Peraltro è anche un debutto strano, poi ne parleremo anche quando faremo il punto della seduta di borsa concentrandoci su Piazza Affari, perché con Ferrari sono 41 le società quotate sull'S&P MIB, che dovrebbe essere un paniere invece composto di 40 società. Non si capisce bene se Borsa Italiana stasera comunicherà che una società viene estromessa, se viene estromessa per esempio Fiat per lasciar posto a Ferrari, o se verranno mantenute le 41 società sull'S&P MIB fino alla prossima revisione del paniere, che avverrà a marzo. Comunque, insomma, questo non è un tema particolarmente rilevante, è solo una curiosità. Avete quindi tanti argomenti da commentare insieme a noi, se lo vorrete, al 349-238-6666. Noi abbiamo l'opportunità sia di leggere i messaggi che di leggere WhatsApp, per cui possiamo accontentarvi in ogni modo. Io ringrazio chi mi dà il benvenuto alla conduzione oggi, speriamo che non si ripetano tanto queste giornate, insomma, che sono anche un po' faticose. Direi che possiamo dare il via adesso alle notizie in breve di questa puntata. La prima notizia ha questo carattere, come al solito, internazionale. C'è questa crisi pesantissima fra Arabia Saudita ed Iran, che naturalmente era già nell'aria da tempo, ma è stata adesso questo nuovo inasprimento scatenato dall'esecuzione di un imam sciita da parte dell'Arabia Saudita, appunto. Chiaramente nelle ultime ore abbiamo assistito, lo avete sentito anche nel corso del giornale radio, tutta una serie di conseguenze rispetto a questo fatto, di cui parleremo dopo le 18:15 con Vittorio D'Arolda del Sole 24 ore. C'è per esempio intanto la sospensione di tutti i voli da e verso l'Iran da parte dell'Arabia Saudita, è stato un annuncio che è stato fatto dal ministro degli esteri proprio nel primo pomeriggio. E c'è anche questa notizia relativa al fatto che Mosca si direbbe pronta a mediare su questo nuovo focolaio di tensione fra Teheran e Riyadh. L'Occidente invece si muoverebbe per fermare l'escalation. In tutto questo, che cosa fa? Il petrolio sale, abbiamo una risalita intorno ai $38 al barile per quello che riguarda il greggio di riferimento europeo. Il Brent è a $37.92 al barile, parliamo naturalmente del futures che scade a febbraio, sempre la medesima scadenza a febbraio del greggio americano, quota invece intorno ai $37.21 al barile. Abbiamo un rialzo anche dell'oro, che sui circuiti internazionali quotava nelle ultime ore intorno ai $1.077 l'oncia. Allora, abbiamo detto che la giornata è partita malissimo questa mattina già dai mercati asiatici. Come sono andati? Sono crollati letteralmente dopo i dati deludenti, appunto, sulla manifattura cinese, e anche in concomitanza della risalita della tensione in Medio Oriente a causa di questo scontro di cui abbiamo più volte riferito in giornata tra Arabia Saudita e Iran. L'indice Shenzhen ha chiuso in calo dell'8,22%, Shanghai meno 6,86%. Tokyo meno 3%, ha fatto un po' meglio Seoul, meno 2,17%, Hong Kong meno 2,5%. Cosa è successo? Abbiamo avuto una nuova frenata a dicembre per l'industria cinese. Questo indicatore misurato dall'indice PMI manifatturiero, che è sceso a 48,2 punti dai 48,6 di novembre. È una discesa che è stata superiore alle attese degli analisti, che invece si aspettavano una risalita di questo dato a 48,9. È stato il decimo mese consecutivo di ribasso. In realtà Bloomberg dice che si tratta del quinto mese consecutivo di calo, poi lo spiegheremo meglio con il nostro ospite più tardi, ma in ogni caso in Cina si sta manifestando la serie negativa più lunga dal 2009. Successivamente, appunto, alla diffusione dell'indice, i listini asiatici, che erano già partiti male, hanno accelerato la loro discesa. Per chi non conoscesse l'importanza di questo indicatore, diciamo solamente che quando questa statistica è al di sotto dei 50 punti, indica una contrazione economica. Lo è perché è intorno ai 48, lo è da 10 mesi a questa parte, per cui è evidente che la contrazione economica cinese è ormai mai un dato di fatto, appunto, di cui tutti sono pienamente consapevoli. Tra l'altro, lo stesso test sull'andamento del settore manifatturiero misurato dall'indice PMI è stato diffuso oggi sia negli Stati Uniti che anche in Europa questa mattina. Per quello che riguarda l'andamento della manifattura americana, anche a dicembre, anche negli Stati Uniti abbiamo avuto un calo a 48,2 punti. Anche in questo caso un dato inferiore alle attese, perché anche negli Stati Uniti ci si aspettava una ripresa a 49 punti, e infatti anche Wall Street va molto male, perché adesso il Dow Jones perde più di 2,5 punti, lo Standard & Poor's perde 2,5 punti. Cosa è successo invece in area euro? Che è proseguita l'espansione dell'attività manifatturiera. A dicembre l'indice PMI dell'area euro è risalito a 53,2 punti dai 52,8 di novembre. Che non sia mai che qua si ricominci un po' a parlare di separazione dell'andamento economico dei continenti, per una volta tanto però a favore dell'area economica appunto europea. Questo indicatore europeo si trova al livello più alto dall'aprile del 2014 ed è un dato che è andato particolarmente bene, a quanto pare, in Francia, dove l'indice PMI manifatturiero è salito a 51,4 punti, al livello più alto da marzo del 2014. Un altro dato su cui oggi gli economisti europei si sono particolarmente soffermati è stato quello relativo all'andamento dell'inflazione in Germania, perché è rallentata a sorpresa a dicembre, più 0,2% per l'indice dei prezzi al consumo su base annua, dopo il più 0,3% del mese precedente. Il dato è inferiore alle stime degli analisti, e qua, se anche in Germania c'è un rallentamento a sorpresa dell'inflazione, immaginate quanto non possa preoccupare Mario Draghi, che a questo punto, per combattere questa tendenza alla deflazione, non so quali altre armi potrà mettere in campo per combattere appunto questo andamento. Qualche notizia dall'Italia. In Italia il reddito medio pensionistico netto è di 13.647 euro, circa 1.140 euro mensili. Lo dice l'Istat, che ha diffuso questo dato contenuto nel rapporto sulle condizioni di vita dei pensionati. Tenendo conto di tutti i trattamenti, la metà dei pensionati italiani percepisce meno di 12.532 euro l'anno e quindi 1.045 euro mensili. Ma c'è di più, perché ancora una volta c'è un gap fra uomini e donne. Nel 2014 i pensionati erano 16.300.000 e hanno percepito in media un reddito pensionistico lordo di 17.040 euro. Le donne pensionate sono il 52,9% della popolazione di pensionati complessiva e ricevono mediamente importi di circa 6.000 euro inferiori a quelli maschili. Un'altra curiosità che scaturisce sempre da questo rapporto: il grado di istruzione farebbe la differenza, almeno se si guarda gli assegni da pensione, perché se il pensionato possiede un titolo di studio pari alla laurea, il suo reddito lordo pensionistico, circa 2.500 euro mensili, 10 euro sotto, è più che doppio di quello delle persone senza titolo di studio o con al più la licenza elementare. Andiamo ad un altro tema caldissimo del momento, perché stanno continuando le proteste dei risparmiatori dopo il decreto salva banche di fine novembre. Questa mattina c'è stato un sit-in davanti alla sede della ex Banca Marche a Iesi. Adusbef e Federconsumatori presenteranno, hanno fatto sapere, un nuovo ulteriore esposto a ben 9 procure, con la richiesta addirittura di incriminare Vegas, che è, come sapete, presidente della Consob, e altri dirigenti dell'autorità di controllo sul mercato finanziario. I consumatori sono sul piede di guerra anche contro la RAI, perché qua ovviamente nel calderone a questo punto mettiamoci tutti. Dal Codacons arriverà un esposto alla Corte dei Conti e anche a vari pubblici ministeri per il caso Capodanno. Comunque questo ci interessa meno, il tema è adesso sentire cosa hanno detto questi risparmiatori nelle sit-in di questa mattina davanti alla ex Banca Marche di Chiesi. Abbiamo delle testimonianze che sono state raccolte dal nostro Daniele Morini. Solo gli azionisti privati di Banca Marche, che sono 43.000, hanno perso cifre intorno agli 800.000 euro, quindi solo gli azionisti, più ho aggiunto gli obbligazionisti, per cui penso che la cifra della perdita superi il miliardo di euro. C'era la tranquillità che queste azioni erano azioni tranquille, cioè messe in una banca del territorio che funzionava, fino a che poi non sono arrivati dei delinquenti che l'hanno massacrata, insomma. Io sono una risparmiatrice innanzitutto e non una speculatrice. Abbiamo avuto fiducia di Banca Marche per 20 anni. I nostri azionisti sono, i nostri iscritti almeno, che sono 1200 circa, 1300, sono tutti azionisti con l'età media supera i 60 anni e nessuno di noi ha mai venduto, ha sempre acquistato. Questo significa che non eravamo e non siamo speculatori, siamo solo risparmiatori. Quindi vogliamo essere rimborsati totalmente come azionisti e come obbligazionisti. Intanto, come sapete, come speriamo tutti sappiano, anche se è un meccanismo abbastanza difficile da comprendere, ma noi ci torneremo magari con tante puntate insieme a Focus Economia, lo farà anche Cuore Denari prossimamente. Dal 1 gennaio è a tutti gli effetti operativo il bail-in, il meccanismo europeo di risoluzione delle crisi bancarie. In caso di salvataggio è previsto il coinvolgimento nell'ordine di azionisti, obbligazionisti subordinati, che sono questi rimasti coinvolti nel crack delle quattro piccole banche italiane, obbligazionisti senior, correntisti, nella quota che c'è di 100.000 euro naturalmente di deposito di soldi sul conto corrente, risorse che possono coprire fino all'8% delle passività della banca. Solo in seconda battuta è previsto un intervento pubblico dello Stato di residenza della banca. Velocemente le cose che sono state dette questa mattina da Sergio Marchionne, poi ci torneremo alla cerimonia di debutto di Ferrari a Piazza Affari. È un nuovo traguardo, una nuova partenza, con la quotazione si è aperto un nuovo capitolo, è un nuovo traguardo, ha detto Sergio Marchionne. Competere sul listino di Milano per la Ferrari è come tornare alle origini. Lanceremo un bond nel primo semestre dell'anno. Marchionne ha aggiunto di non avere chiesto il rating alle società di rating sulla casa di Maranello. Poi ha parlato anche di questo tema che ha suscitato grande attenzione da parte degli analisti, la ricerca di un partner per la società, che sarebbe stata vista anche come un segno, ha detto lui, di debolezza per il piano 2018, ma secondo me, ha precisato, è una cavolata. La ricerca di un partner prosegue, non si chiuderà quest'anno, può beneficiarne il nostro gruppo, ma non è decisivo, quello di creare valore per gli azionisti e raggiungere gli obiettivi al 2018, questo ci darà altra forza, ha detto ancora Marchionne. Peraltro ha ringraziato anche Renzi per quello che fa per l'Italia, quindi complimenti reciproci a profusione. Questa mattina nella cerimonia di Piazza Affari, Marchionne ha anche detto: condivido l'ottimismo di Renzi sull'andamento dell'economia italiana. Direi che ci stiamo avvicinando alla chiusura della prima parte della trasmissione. Allora, adesso possiamo anche cambiare, come al solito, colonna sonora, che è sempre il momento decisivo per l'introduzione del primo approfondimento di oggi. Sentiamo. È una bella colonna sonora sprint che piacerebbe probabilmente a Matteo Renzi, visto il tema del quale parliamo oggi. Allora, l'Italia a quanto pare non riesce a recuperare le perdite della crisi, a mettersi alla pari dei big dell'Unione Europea su alcuni campi specifici, industria e lavoro. Sono i dati di Eurostat, l'Istituto di Statistica Europeo, a dirlo. Poi questi dati sono stati rielaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico e, secondo appunto questa reciproca elaborazione, a stentare sarebbero soprattutto alcune voci. L'occupazione giovanile è quella voce che preoccupa più di tutte. Dal minimo registrato durante la crisi ha appena recuperato lo 0,9%, mentre in Germania il recupero per questa voce è stata del 2,7%, del 4,2% in Gran Bretagna e dell'1,9% in Spagna. Bene invece il clima di fiducia. In base ai dati contenuti nel cruscotto congiunturale messo al punto dal Ministero dello Sviluppo Economico, il livello della produzione industriale italiana è invece ancora sotto del 31% rispetto al picco massimo che era stato toccato in tempi recenti nell'aprile del 2008. E praticamente in Italia è stato recuperato solo il 3% rispetto ai minimi toccati durante la recessione. La Francia ha recuperato l'8%, la Germania ben il 27,8%, la Gran Bretagna il 5,4%, la Spagna il 7,5%. E il confronto, questo è un tema sul quale si soffermavano molti giornali questa mattina, è ancora più implacabile se si guarda esclusivamente al settore delle costruzioni. Ad ottobre di quest'anno l'Italia era 85 punti sotto il massimo pre-crisi e ha toccato il nuovo minimo assoluto dall'inizio della crisi economica. Insomma, ce n'è di commenti da fare con Francesco Daveri, il professor Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università di Parma, editorialista del Corriere della Sera. Buonasera, professor Daveri, grazie di essere con noi. Buon anno. Buonasera, buon anno. So che a lei conti non tornano, però, intanto. È d'accordo con questo meno 31% dei massimi della produzione industriale italiana toccati nell'aprile del 2008? Ma sono dettagli, naturalmente, nel senso che poi meno 25, meno 31 non è che faccia una grande differenza, è sicuramente da un quarto a un terzo della produzione industriale italiana che manca. Non so bene perché venga fuori questo numero da Eurostat, non ho avuto il tempo di andare a vedere come mai venga fuori questo numero. Guardando i dati dell'Istat, che sono quelli su cui mi baso normalmente e che però è anche quello che fornisce i dati a Eurostat, quindi i dati dovrebbero essere uguali. Certo. Il numero che viene fuori è più piccolo, cioè mancano 23 punti circa. Il peggio è stato quando ne mancavano 25, quindi insomma grosso modo il quadro complessivo non è che cambi molto. Ecco, abbiamo recuperato circa il 10% di quanto abbiamo perso. Certo. Quindi invece abbiamo perso 25 punti e abbiamo recuperato 2,5 punti. E comunque, professor Daveri, sì, no, che ne pensa di questa nuova pagella europea e di che tempi ha bisogno l'Italia per tornare alla produzione industriale pre-crisi? Ma dunque, la produzione industriale pre-crisi secondo me non la si rivedrà, punto. Nel senso che credo che ci siano, produzione industriale vuol dire la localizzazione di impianti e di occupati che avevamo in un periodo che è stato un periodo di massimo di sempre per molte produzioni industriali, penso per esempio alla produzione di beni di consumo durevole. Di fatto si veniva da anni in cui le cose erano andate bene per varie ragioni e poi questi prodotti hanno poi bisogno di tempo per ritornare a una fase ascendente. Non basta l'aumento del reddito disponibile, perché c'è un problema anche di insomma, che più di tanti elettrodomestici, più di tanti televisori, più di tanti automobili uno non è che può avere, e quindi ci vuole del tempo perché queste cose che sono state comperate in passato quando le cose andavano molto bene vadano un po', insomma, si arrugginiscano, si rompano, e quindi ci vuole del tempo per ricostituire questo ciclo. Questo vale per i beni di consumo durevoli, come appunto elettrodomestici e televisori, elettronica di consumo di questo tipo, vale anche per molti delle cose che comprano le aziende, i mezzi di trasporto. Di fatto le automobili hanno beneficiato del fatto che, siccome la crisi è cominciata prima, fatto gli italiani hanno ricominciato a comprare automobili più rapidamente, perché di fatto la crisi era cominciata un po' prima. Quindi secondo me a 100 non si tornerà più. Il 100 dell'aprile 2008 è molto difficile pensare, fare una data per dire quella data sarà la data in cui, certo, ritorneremo lì. Quello che possiamo sperare di fare è aumentare la produttività e avere un numero di occupati che sostenga almeno una frazione della produzione manifatturiera di allora, e magari dei servizi che stanno intorno a questo manifatturiero che aiutino a sostenere la concorrenza, la capacità di competere delle aziende italiane in giro per il mondo. Insomma, questo è quello che si può pensare. Certo che questo momento anche di crisi cinese, questa sberla di inizio anno per un ripristino anche della fiducia, forse non ci voleva. Adesso magari con lei commento anche questo aspetto. La ringrazio per aver ricordato il tema auto, perché peraltro alle 18 dal Ministero dei Trasporti arriva la statistica sulle immatricolazioni e quindi le vendite del settore di dicembre, un mercato che è ripreso in Italia. Vedremo se potremo fare poi un bilancio complessivo del 2015 soddisfacente per l'industria in una giornata molto importante come quella di oggi, in cui Ferrari è arrivata anche a Piazza Affari. Senta, in tutto questo scenario che ci ha delineato poco fa, prima che si ritorni a 100, insomma, di strada da fare ce ne vorrà ancora, perché però non hanno aiutato, pur avendo concentrato lei la sua attenzione nella sua analisi sul tema della difficoltà della domanda interna, dei consumi interni e quant'altro, comunque perché non hanno aiutato, almeno secondo gli auspici e le aspettative, il calo del prezzo del petrolio, l'euro che ha una, come dire, certamente un andamento che dovrebbe incoraggiare quantomeno il tema delle esportazioni, la BCE, la politica monetaria, i tassi zero, la liquidità sul mercato, il quantitative easing, le banche che hanno ricominciato a derogare credito? Perché tutto questo mix di fattori, che teoricamente dovrebbe essere davvero un mix molto favorevole, non aiuta? Non aiuta, almeno secondo gli auspici, ecco. Sì, cioè, beh, allora, bisogna distinguere un pochettino. Le banche commerciali, in realtà, che abbiano proprio ricominciato a erogare credito, insomma, è quello che si comincia a vedere con le famiglie, nel senso che i numeri positivi, leggermente positivi rispetto a 12 mesi fa, sono per il credito alle famiglie. Per il credito alle imprese, quello che vediamo è un meno 2, un meno 1,5, mentre era meno 3, meno 4 nei mesi scorsi. Quindi comunque il credito alle imprese di fatto non è ancora ripartito. Questo non solo per colpa delle banche, anzi toglierei la parola colpa. Cioè, le banche hanno dei bilanci disastrati e quindi questa è la ragione principale. Molte banche hanno avuto bilanci disastrati negli anni passati, hanno fatto le ricapitalizzazioni e quindi soprattutto le banche più grandi si sono ora rimesse un po' in sesto e sono quindi in grado di ricominciare a prestare. Non è vero per, ahimè, come si è visto, per invece le banche, alcune delle banche più piccole, quelle magari che avevano un rapporto molto stretto con il territorio. Quindi indubbiamente questo è un pezzetto importante che manca all'appello, nel senso che poi le piccole imprese sono radicate nel territorio, se viene a mancare la banca che tradizionalmente ha sempre offerto così delle spalle su cui appoggiarsi, chiaramente viene a mancare molto per la ripresa. Quindi Draghi può fare quello che vuole, però poi in pratica se di fatto le banche commerciali che sono le destinatarie ultime del suo quantitative easing di fatto non sono in grado di attivare nuovi crediti perché non hanno abbastanza riserve, perché non sono abbastanza capitalizzate, questo rappresenta un freno sicuramente alla ripresa. Professor Daveri, quest'ultima manovra di stabilità è piena di bonus che hanno l'obiettivo anche di rimettere, continuare a rimettere un po' di soldini in tasca agli italiani. È una manovra che potrebbe avere un effetto positivo sulla ripresa dei consumi tanto auspicata, o a questi fini è una manovra neutra? Ma insomma non sono dei gran numeri, ecco, nel senso che anche il taglio delle tasse di cui si è parlato di fatto diventa più grande e quindi si avvicina ai 20 miliardi quando includiamo anche il famoso disinnesco delle clausole di salvaguardia, ovvero sia il mancato aumento dell'IVA, delle accise che doveva scattare nel 2016 ma che nessuno in effetti aveva ancora visto. Quindi il governo quello che ha dovuto fare è stato di trovare delle risorse, che poi le ha trovate per lo più facendo deficit per gli anni successivi, per riuscire a non far scattare questo aumento di IVA e di accise. Però questo effetto non è che possa influenzare molto i consumi, cioè non è che la gente avesse pensato di spendere di più nel 2015 in attesa di queste salvaguardie del 2016. Anche perché il governo è da aprile che continua a dire che di fatto sarebbero state disinnescate queste salvaguardie. Quindi quello che avanza, 20 meno 17 miliardi circa, che sono il disinnesco delle clausole di salvaguardia, viene fuori una roba come 3 o 4 miliardi di tagli di tasse, il che insomma è lo 0,25 del PIL. Ecco, quindi l'effetto che possiamo aspettarci è aggiuntivo e di quest'ordine di grandezza. Poi ci sono alcune voci di spesa aggiunte che possono dare una mano in particolare in condizioni di particolare disagio, come il sostegno delle misure per la povertà, che è una cosa giusta da fare, che all'inizio si dovrebbe fare di più. Senta, in questo paese che prova a ripartire i numeri della disoccupazione giovanile sono ancora veramente angoscianti a dir poco. Il Jobs Act non produce gli effetti ricercati, presumibilmente bisogna fare qualcosa di più. Lei su questo tema che idea? Ma dunque, allora, la disoccupazione giovanile in effetti continua a mostrare dei numeri astronomici. Dobbiamo sempre tenere a mente che però il tasso di disoccupazione misura disoccupati diviso quelli che cercano lavoro. I giovani che cercano lavoro da 15 a 24 anni sono una frazione piuttosto piccola di quelli che dei giovani che ci sono in giro. Quindi quando uno vede 40% non vuol dire che il 40% dei giovani sono disoccupati, al netto appunto di quelli che di fatto stanno studiando, per esempio, e che stanno facendo delle altre cose, i disoccupati sul totale dei giovani tra 15 e 24 sono grosso modo il 25%, insomma, quindi tanto, sono numeri grandi, però non sono una cosa da sciagura sociale come sarebbe il 40%. La differenza è tra nord e sud, perché poi questa è l'altra cosa importante da dire, nel senso che è particolarmente al sud una piaga questo. E lì indubbiamente quello che succede è che probabilmente le misure introdotte non sono abbastanza per far ripartire l'economia del sud e il mercato del lavoro del sud. Senza fatturati al sud un po' più distribuiti, senza più soldi alla classe media del sud, di fatto non ripartono i consumi e non ripartono, quindi non riparte neanche l'occupazione in questa parte del paese che soffre più delle altre. Professor Daveri, in questo atto di correttezza nei confronti di una testata concorrente non le faccio nessuna domanda sulla Cina, così tutti gli italiani avranno il piacere di leggere quello che pensa su questa giornata di crisi cinese domani sulle pagine del Corriere della Sera. Intanto la ringrazio per essere stato con noi, buona serata. Grazie. Avevamo da far ascoltare ai nostri ascoltatori anche le dichiarazioni di Renzi di oggi, finalmente l'Italia c'è, corriamo più degli altri. Sospendiamo, adesso sentiamo la pubblicità, ve lo faccio ascoltare fra pochissimo. Focus Economia. Penso anche che questo sia il momento nel quale l'Italia debba smettere di giocare con gli alibi. Anche in queste ultime settimane leggo in tanti che dicono che la vitalità del nostro paese deriva da fattori esterni. Credo che fattori esterni è il nome che molti danno alla pigrizia, alla propria pigrizia. È un alibi spaventoso dietro al quale si nasconde che cosa? Il tentativo di giustificare le mancanze del passato. E invece, a mio giudizio, se guardiamo i dati di fatto, se guardiamo la realtà, l'Italia finalmente c'è. C'è in modo molto forte. I problemi della politica del 2015... quelli che a gennaio del 2015 erano nell'agenda della politica non ci sono più. Questo non vuol dire che tutto sia stato risolto, ma l'agenda della politica del 2015 era fatta di articolo 18, di stabilità, di legge elettorale, di riforma costituzionale, di abbassamento dell'IRAP sul costo del lavoro, dell'IMU, della TASI, tutte questioni che non riguardano più la politica perché sono state affrontate. Finalmente l'Italia c'è, così ha spiegato il Presidente del Consiglio Matteo Renzi stamattina alla quotazione di Ferrari in borsa. L'avevo promesso, insomma, ve l'abbiamo fatto riascoltare nelle sue dichiarazioni, sempre all'insegna del grande ottimismo sull'economia italiana. Certamente quello che sta succedendo oggi sui mercati finanziari non è proprio un auspicio all'insegna dell'ottimismo. Borsa in grandissima difficoltà, una prima giornata di contrattazione del nuovo anno memorabile che adesso vale la pena commentare. Buonasera, grazie per essere con noi. Ad Andrea Cuturi, vicepresidente di Antilia SGR. Buon anno, dottor Cuturi. Auguri a lei. Ecco, si è divertito oggi davanti ai terminali? Beh, divertito direi di no. un primo giorno col botto, come oserei dire. Infatti, l'abbiamo in molti definito così. Dunque, abbiamo cominciato subito con il racconto stamattina dell'andamento della giornata sui mercati asiatici, no? E il calo tra il 7 e l'8% dei principali panieri cinesi è stato attribuito all'ennesima statistica negativa sul settore manifatturiero cinese. Ma era così imprevedibile questo dato al punto da mandare a picco i listini in questa misura? No, non era così imprevedibile, di fatto il dato uscito non era così lontano dalle stime. Il fatto vero è che si è innescata una sorta di circolo vizioso tra indebolimento degli indici e indebolimento della valuta. Ricordo a tutti che l'estate scorsa il mercato cinese è imploso sostanzialmente su una svalutazione dello yuan. Oggi è esattamente successo questo, cioè è stata non implicitamente messa in piedi dal governo, ma dal mercato stesso, una svalutazione dello yuan di più dell'1%, che è un numero molto importante per una valuta come quella. Quindi, insomma, quindi quando ci si riassesta attorno al cambio, di conseguenza si devono rimettere a posto anche tutte le esposizioni sul mercato azionario, quasi fattori tecnici che hanno provocato una discesa così dirompente? Beh, direi che il circolo vizioso che menzionavo prima fa scattare tutta una serie di automatismi, motivo per cui la borsa cinese, per esempio, è stata bloccata al meno 7%, sì, facendo al primo giorno di test subito il crash test, come si suol dire. Però sui mercati, sui mercati, sugli ordini, ci sono degli automatismi che con price action molto violente come quelle che stiamo vedendo nella giornata di oggi si autoalimentano, quindi ordini di vendita che scattano solo quando ci sono certi prezzi, e tutto questo in qualche modo deve essere un po' fermato. Ecco. Senta, l'Europa è molto pesante, perché è Francoforte la piazza ad aver avuto le ripercussioni più pesanti dall'accadimento, da quello che è accaduto in Cina, meno 4,28% adesso per il listino appunto tedesco, anche se gli altri fanno una buona compagnia, perché Parigi perde 2,5%, Londra meno 2,6%, Milano meno 3,20%, che poi ha accelerato, anzi si stava un po' salvando, non era proprio tra le peggiori, invece adesso perché, Cuturi? C'è una motivazione specifica? Allora, intanto oggi tutto il settore auto, in particolare quello esposto alla Cina, è stato penalizzato significativamente. Diciamo che i peggiori titoli in Europa, nei 50 maggiori titoli, sono BMW, Volkswagen e Daimler. Sono, sono tra almeno il 5 e il 6, sì. E il lusso italiano. Un effetto. Questo sì, però il lusso italiano, diciamo, non è particolarmente rappresentato nello Eurostoxx 50. Quindi questo per dire che le grandi capitalizzazioni, in particolare le tre auto tedesche, hanno pesato molto sull'indice. Oltre a questo c'è un dato di inflazione tedesca particolarmente debole, l'avete già commentato, che è il vero motivo per cui oggi l'euro è particolarmente debole e il dollaro è molto forte. Infatti è sceso sotto 1,08 poco fa l'euro. Siamo scesi sotto 1,08, siamo 1,0796 in questo momento. Sì. E a nostro avviso questo percorso continuerà progressivamente, non tutto con questa violenza evidentemente, ma noi vediamo nel corso della prima metà di quest'anno la parità tra euro e dollaro. Addirittura, quindi lei ci lancia già questo pronostico, per in che tempi, dottor Cuturi? Nella prima metà dell'anno, non sono in grado di dire se a marzo o a giugno, però insomma comunque poteva anche dire entro il 2016, invece comunque ha limitato l'arco temporale al primo semestre di quest'anno. Purtroppo questo tipo di volatilità ci impone di ragionare sul trimestre, massimo sulla metà dell'anno. Senta, la volatilità sarà la parola d'ordine per tutto il 2016, volatilità nella misura in cui stiamo vedendo oggi, quindi oggi meno 4% per Francoforte, domani vedremo un listino che recupererà quasi tutto? A suo avviso, con delle ricoperture su titoli che oggi sono stati magari bastonati in maniera esagerata? Il tutto dipende dalla parte asiatica del mercato, come lo stop delle contrattazioni in Cina potrebbero aver stoppato un possibile recupero che magari già oggi sarebbe dovuto essere. Detto questo, la volatilità continuerà ancora per qualche giorno. Di solito quando ci sono degli shock così importanti, attenzione, shock non solo di mercato ma anche di geopolitica, l'avete commentato già in passato, sono questa sera, ma sono elementi molto importanti, quindi un doppio shock mercato, un shock geopolitico, ci mette almeno una settimana a essere riassorbito. Adesso noi commenteremo i temi specifici di Piazza Affari fra poco con Flavia Carletti, collega di radio, con il Sole 24 Ore. Prima facevo questo parallelo fra l'auto tedesca, molto colpita dalle vendite, e il lusso italiano, molto colpito dalle vendite, anche se non come dire, è molto rappresentativo nell'Eurostoxx appunto 50 nel paniere europeo. E però questo settore è molto esposto in Cina, dottor Cuturi, per cui in realtà questo comparto qua oggi ha avuto delle ripercussioni pesantissime dalla nuova statistica che dimostra il rallentamento cinese. Quanto ancora, secondo lei, dovremmo un po' navigare a vista sulla questione cinese, almeno nei termini da provocare appunto questi cali di borsa così importanti? Io sono un pochino meno preoccupato e pessimista, forse anche per motivi di dietrologia. Il Politburo cinese ha presentato qualche mese fa un programma a 10 anni in cui vuole trasformare un'economia infrastrutturale, di crescita infrastrutturale, in un'economia che cresce sui consumi. Questo non succede né in 3 mesi né in 6 mesi, ma ci vogliono degli anni. Quindi oggi il dato che ha un pochino deluso è proprio quello dei consumi. Se dovesse continuare così, ho come l'impressione che il governo e le statistiche cinesi andrebbero incontro a questa cosa. Questo per dire che diciamo, se anche ci dovesse essere una mancata compensazione dei consumi verso le infrastrutture, ho come l'impressione che questo verrebbe in qualche modo edulcorato. Ecco. Andrea Cutturi, vicepresidente di Antilia SGR, grazie per essere stato con noi. Buon anno. Grazie a voi. Auguri. A presto. Buonasera. Nuova pausa pubblicitaria, poi andiamo ai temi di Piazza Affari. Focus Economia. Allora, questo simpatico effetto Cina sui listini europei nella prima seduta dell'anno, la chiusura delle borse cinesi con un calo fra il 7 e l'8%, peraltro anticipata, perché le autorità ad un certo punto hanno detto facciamo un po' scattare il meccanismo di chiusura anticipata, perché sennò qua chissà che cosa succede. Vendite scatenate dal settore manifatturiero in nuova contrazione e tanti altri fattori che abbiamo esaminato poco fa, appunto, hanno portato anche poi ad una giornata veramente da dimenticare per l'Europa. Eccoci qua verso le chiusure: Parigi meno 2,47, Francoforte meno 4,28, Londra meno 2,39, Milano meno 3,20, Dow Jones negli Stati Uniti meno 2,35, Standard & Poor's meno 2,21%. Ma adesso andiamo a commentare le singole storie di Piazza Affari con Flavia Carletti di Radio Cuore, Il Sole 24 Ore. Flavia, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, io ti anticipo già che subito dopo il giornale radio delle 18 faremo un approfondimento sulla Fiat Ferrari, Ferrari Fiat con Andrea Malan, però intanto con te possiamo cominciare ad anticipare qualcosa. Ferrari più 0,53%, vi dico che è l'unico titolo che chiude in positivo a Milano, per cui questo debutto che era stato salutato anche con un po' di stamattina distacco, anzi il titolo perdeva il 4% in avvio, ha fatto fatica a fare prezzo, è andato in asta di volatilità, alla fine l'unico a salvare la faccia, Flavia. Sì, esattamente, è stato l'unico tra quelli a maggiore capitalizzazione che alla fine è andato bene. C'erano Snam e Talcementi che sembrava che potessero seguire Ferrari in scia, invece poi alla fine al prezzo finale hanno avuto dei piccoli ribassi. Appunto Ferrari che poi è andata completamente in controtendenza sia col settore che con FCA, che invece ha perso il 4,85%, anche se secondo molti operatori non al di là del fatto che ha risentito comunque c'è stato lo scorporo, quindi è stato cambiato il prezzo rettificato, sì. Cioè, il calo con il prezzo rettificato è comunque considerato in linea con quello del settore auto europeo. Anche Volkswagen a Francoforte ha perso molto, idem per Peugeot e Renault a Parigi, quindi comunque oggi il settore auto è stato penalizzato in tutta Europa. Ferrari probabilmente ha fatto un po' eccezione perché c'era comunque questo esordio atteso, la prima seduta dell'anno, e quindi è riuscito un po' a salvarsi rispetto al resto del comparto, anche perché poi Ferrari è proprio un unicum in questo senso, perché è considerato un po' sia un titolo del settore auto, ma anche viene paragonato spesso ai titoli del lusso, sì. E anche i titoli del lusso oggi sono stati tra i più venduti non solo a Milano ma in tutti i listini europei, quindi Ferrari probabilmente beneficia solamente del fatto dell'effetto esordio, perché sì. No, stavo pensando che esattamente come era successo per la quotazione di Wall Street, e poi la categoria sotto la quale è stata quotata la società Race, quindi corse e non luxury, lusso, era così, basta, volevo ricordare solamente questa curiosità. Chiusa la parentesi, Flavia, ti lascio concludere. Sì, poi appunto Ferrari, diciamo, c'è molta attesa per la stagione 2016 appunto di Formula 1, Marchionne ha detto che loro vogliono puntare a vincere, e come potrebbe essere altrimenti, e in più diciamo, forse agli investitori è interessato di più il fatto che Marchionne ha dichiarato che la società pagherà dividendi e comunque che il payout sarà alto nei prossimi anni. Benissimo, e intanto Ferrari appunto, ribadiamo, più 0,53% a Piazza Affari, il titolo è l'unico positivo di questa giornata da dimenticare per tutte le borse. Allora andiamo ai peggiori in assoluto. Yoox Net-a-Porter meno 7%, cominciamo da questo per fare un po' un esame generale del settore del lusso. Salvatore Ferragamo, così tanto perché andavano bene le cose nelle ultime settimane, anche oggi porta a casa un meno 5%. Anche Moncler andava molto male, ha recuperato qualcosina, alla fine non è tra i peggiori peggiorissimi, però adesso neanche me lo ritrovo al volo. Ecco qua, meno 3,64%. Flavia. Sì, appunto, il lusso, non ci sono storie in qualche modo singole sui titoli, ma come dicevate voi c'è stato questo effetto Cina che è andato a colpire tutti i titoli indistintamente, anche se appunto la più penalizzata proprio come lusso in quanto tale è stata Salvatore Ferragamo. Yux Net-a-Porter è in qualche modo anche legata ai consumi, le vendite online non è proprio magari quelli che vengono identificati subito come lusso. Moncler ha fatto appunto meno 3,64%, Luxottica meno 3,48% e Tod's meno 2,53%, ha fatto anche meglio del mercato, però sono stati movimenti generalizzati, tanto che sia Kering che LVMH a Parigi hanno perso entrambe intorno al 4%, quindi è difficile rintracciare dei motivi particolari che oggi hanno potuto far vendere questi titoli. Ma no, insomma, diciamo che sono il timore di un rallentamento dell'economia cinese, che è considerato uno dei mercati ormai più importanti per questi titoli europei, oggi si è andato a vendere, anche perché appunto quelle vendite sono state generalizzate sui finanziari, risparmio gestito, il lusso, è difficile trovare qualcuno che si è salvato, che è riuscito a fare meglio di altri. Dobbiamo raccontare anche la storia di Ansaldo oggi. Sì, STS oggi, anche se non è uno dei titoli a maggiore capitalizzazione, è uno di quei titoli che un po' di attenzione la richiedeva, perché è il primo giorno dell'OPA dei giapponesi di Hitachi e il prezzo si è mantenuto ancora sopra quello che era il prezzo dei 9,5 euro dell'offerta. Infatti il titolo ha avuto una flessione dello 0,71%, però ha chiuso a 9,8 euro, quindi di 0,3 euro ancora superiore al prezzo di OPA, perché c'è ancora chi scommette che possa essere un rilancio. Esattamente. Bene, qualche tema interessante. Senti, Fincantieri invece. Fincantieri alla fine ha ritracciato un pochino sul finale, comunque si è mantenuta tra i migliori di seduta, ha chiuso più 2,42% a 0,41 euro e continua questo movimento di recupero che si era già iniziato a vedere dalla metà di dicembre, beneficiando soprattutto di questa notizia arrivata negli ultimi giorni che il gruppo ha siglato un importante accordo con il gruppo Carnival, che è proprietario di diversi marchi di gruppi croceristici, per la costruzione di 4 nuove navi da crociera del valore complessivo di 2,5 miliardi di euro. Si tratterà di 4 navi, di cui 2 destinate al brand Costa Asia e una poi invece in Australia e una alla Princess Cruises, e la consegna è prevista tra il 2019 e il 2020, ma il flusso di guadagni è già previsto dal 2016. Senti Flavia, adesso per accontentare gli ascoltatori che sono assolutamente non tanto appassionati ma quasi ossessionati dei migliori e dei peggiori, farò la lista della spesa come sempre, ma avete già fatto un calcolo di quanta, perché poi domani questo sarà il titolo che campeggerà su tutti i giornali, quanta capitalizzazione è stata bruciata oggi da questo tracollo? Non ancora? No, non ancora. Non ancora, benissimo. Adesso vedremo se ce l'avrò in tempo reale entro le 18.30. La daremo certamente ai nostri ascoltatori. Allora, i titoli che hanno perso meno: Snam, meno 0,04, quasi sulla parità. Italcementi, meno 0,39. Peraltro è stato forse il miglior titolo in assoluto dell'anno scorso. Terna, meno 0,80. Tenaris, meno 1,28. Popolare di Milano, meno 1,68. Buzzi Unicem, meno 1,81. Poste Italiane, meno 1,90. I peggiori in assoluto, allora, su Yux Net-a-Porter abbiamo detto, CNH Industrial meno 5,84, Monte dei Paschi, tanto per cambiare, così si porta a casa un altro meno 5% di calo, Banca Mediolanum meno 4,86, Fiat Chrysler meno 4,85, Banco Popolare meno 4,45, Ubibanca meno 4,44, qua veramente è un bollettino di guerra. Ma Flavia, con Ferrari sono 41 i titoli quotati sull'S&P MIB, che generalmente dovrebbe essere un paniere che contiene 40 società quotate. Allora, avevo già anticipato ai nostri ascoltatori che avremmo fatto un commento su questo. Chi entra, chi esce, quando? Un ascoltatore mi ha detto, guarda, alla revisione di marzo uscirà Enel Green Power. Tu sai qualcosa di più preciso su questo? No, ancora non è sicuro. Allora, la questione è che per ora compariranno 41 componenti, questa cosa è una soluzione che è considerata provvisoria almeno fino al 6 gennaio. Oggi al termine della seduta FTSE Russell, che gestisce gli indici di Piazza Affari, comunicherà se il paniere conserverà i 41 titoli fino alla prossima revisione ufficiale, appunto prevista per marzo, o se ci sarà da subito, dopo questa periodo provvisorio, un ritorno ai 40 titoli. Appunto, se potrebbe esserci, qualcuno diceva, se sarà data una comunicazione entro oggi, potrebbe essere detto che o Ferrari o FCA, uno delle due uscirà, almeno questa era una delle previsioni che era state fatte, altrimenti se si aspetterà a marzo, a quel punto uscirà il titolo che rispetto agli altri avrà le caratteristiche più deboli rispetto agli altri 40, quindi così. Però appunto per ora ancora, almeno comunicazioni per ora non ne abbiamo ricevute. Flavia, grazie. Momento, devo salutarti, grazie molte, buon anno, noi ci fermiamo, il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Donne, è arrivato Melog del tardo mattino. Melog accomoda pregiudizi, pensieri scontati e luoghi comuni. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per sguardi non convenzionali. Se il vostro cervello fa fumo, noi lo ripariamo. Affiliamo senso critico, fratelli coltelli, parenti serpenti, opinioni saccenti. Insomma, ascoltate il Melog di mezzogiorno. A metà giornata si rivolta alla frittata. Gianluca Nicoletti vi aspetta con Melog dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 su Radio 24. Focus Economia. Ed eccoci ritrovati a Focus Economia, ancora buona serata a tutti da Deborah Rosciani, questa sera al timone del programma in cui vi raccontiamo come sono andate le cose dal punto di vista economico-finanziario della giornata, e oggi ne abbiamo veramente avute tante da raccontare, giornata super negativa in borsa per tante ragioni, adesso ci torneremo, tutto è cominciato dalla Cina questa mattina, fra un po' ritorneremo in quell'area per capire che cosa sta accadendo di nuovo rispetto già ai fatti della scorsa estate. Adesso però è tempo di raccontarvi del tema di oggi più importante per quello che riguarda il mercato finanziario italiano, perché Ferrari ha debuttato a Piazza Affari dopo essere stata quotata a Wall Street lo scorso 21 ottobre. Prezzo iniziale fissato a 43 euro per azione, era attorno ai 48 dollari nella chiusura dell'ultima seduta dell'anno di Wall Street, quindi circa 44 euro, con una capitalizzazione di mercato di circa 8,32 miliardi. È stata completata proprio ieri la separazione di Ferrari da Fiat Chrysler Automobiles dopo quasi mezzo secolo di connubio, uno scorporo che ha previsto che l'80% di Ferrari venga assegnato agli azionisti Fiat con un concambio di un'azione Ferrari ogni 10 Fiat. Andrea Malan, Il Sole 24 Ore, buon pomeriggio. Buonasera a tutti, senti anche un po' già buio. L'hanno fatta suonare a te stamattina la campanella a Piazza Affari, visto che ti sei recato prestissimo per assistere in prima persona alla cerimonia dove c'era Renzi. E naturalmente non ho suonato io, la campanella che è stata installata per l'occasione, che è, ricordiamo, una tradizione più americana, esatto, che italiana, infatti. È stata suonata da Sergio Marchionne e John Elkann, presidente di Ferrari e presidente di Fiat Chrysler, di fronte a Matteo Renzi, a una platea abbastanza nutrita. Come hai ricordato tu, il debutto è arrivato in una giornata non certo favorevole per i mercati, per cui a giudicare dalle prechiusure di questi minuti, io ho fatto un conto per spiegare ai nostri ascoltatori abbastanza rapido. Chi aveva 1000 azioni Fiat a fine anno, aveva circa 12.000, poco più di 12.000 euro, alla chiusura di oggi ha le stesse 1000 azioni Fiat più 100 azioni Ferrari, ma ha perso circa 400 euro, ovvero poco più del 3%. Quindi non ha recuperato più questo mezzo punto di rialzo di Ferrari, non ha compensato la perdita di Fiat. Esatto, esatto. Il meno 3% peraltro è abbastanza in linea con quello che è stato il calo generale del mercato. Titoli auto, sì, ne abbiamo parlato poco fa. Peraltro, a proposito di auto, ti dico anche, probabilmente li hai visti tu anche delle agenzie, che sono arrivati i dati sulle immatricolazioni di dicembre per il mercato italiano, più 18,65%. Di nuove vendite nell'ultimo mese dell'anno. Fiat fa molto meglio del mercato, perché le vendite per lingotto, ex lingotto, chiamiamolo come vogliamo, sono aumentate del 27,1%. Quindi qua abbiamo un'altra buona notizia, vedremo se sarà quantomeno domani premiata in borsa. Intanto, Andrea, faccio sentire ai nostri ascoltatori cosa ha detto oggi Sergio Marchionne. La verità è che si apre un altro importante capitolo della storia della Ferrari. La scissione del gruppo dal gruppo FCA sancisce in modo formale l'indipendenza che Ferrari ha sempre avuto pur facendo parte del gruppo automobilistico, un'indipendenza che è stata operativa, in parte finanziaria, ma che è necessaria adesso per mantenere l'unicità dei modelli e del marchio Ferrari, garantendo il pieno sviluppo del suo potenziale. Sono particolarmente grato di avere qui oggi alcuni dei nostri clienti che ci appoggiano costantemente ai quali prometto modelli sempre più esclusivi e sempre più innovativi, come sono stati tutti quelli della nostra storia, ad iniziare dalla leggendaria 125S che è esposta in questa sala. Andrea Malan, ma la quotazione in borsa in Italia, alla quale teneva molto anche Renzi, Marchionne l'aveva promessa e quant'altro, era proprio necessaria secondo te o era più una questione di opportunità reputazionale per il gruppo? Beh, diciamo che non è indispensabile e comunque per un'azienda italiana, ricordiamo peraltro azienda italiana di cui è stata quotata la holding olandese, holding che è stata creata soprattutto per sfruttare il meccanismo dei doppi diritti di voto, chiusa la parentesi, un'azienda comunque italiana di cui Marchionne ha ricordato oggi l'assoluta italianità, sarebbe inimmaginabile, ha detto, una produzione al di fuori di Maranello, ovviamente ha nella quotazione a Milano direi una sede naturale. E poi nel caso di FCA per esempio c'è anche lì la doppia quotazione a Wall Street e a Milano, in questo caso quella a Milano era venuta molto prima, e ricordiamo che a Milano continua a essere il grosso degli scambi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, sarà interessante vedere cosa succederà nei prossimi giorni al titolo Ferrari. E che cosa è ragionevole prevedere secondo te? Hai sentito anche qualche analista? Oggi è andato bene, peraltro dicevamo prima anche con Flavia Carletti che questo è un titolo a metà tra il che appartiene, come dire, un po' dalla collocazione un po' ibrida, no? Perché naturalmente appartiene ad un settore specifico che è quello delle veicoli, corse e quant'altro, però viene anche percepito come comparto lusso, no? Quello a cui appartiene Ferrari, per cui ecco, che cosa si può ragionevolmente prevedere anche alla luce di questa crisi cinese su cui magari bisognerà fare anche un ragionamento specifico, non so quante Ferrari là avessero l'obiettivo di essere vendute. Dunque, innanzutto premetto che oggi non ho ancora fatto in tempo a parlare con analisti perché la giornata è piuttosto confusa. Sì, sei stato un filino impegnato pure con noi, quindi te ne ringraziamo. Marchionne sicuramente ha dato una serie di indicazioni su dove andrà la Ferrari, parte già note. Un aumento della produzione, ricordiamo che la Ferrari ha limitato la produzione finora a circa 7.000 unità l'anno, l'idea è di aumentarla progressivamente fino a 10.000, non superarla sia per mantenere l'esclusività del marchio, sia perché oltre le 10.000 vetture negli Stati Uniti ci sarebbero probabilmente dei problemi di normative sulle emissioni più difficili da superare. Per queste 10.000, ricordo la Cina che tu hai appena citato, sicuramente il mercato cinese per raggiungere queste 10.000 è tra i più importanti, sicuramente quest'anno non è stato facile, forse ancora più per Maserati che non per la Ferrari stessa. L'altro filone di crescita è quello del merchandising e di tutti i possibili ricavi al di là dell'auto, su cui però Marchionne ha detto bisogna stare attenti perché non è che possiamo appiccicare il cavallino rampante dappertutto. La cosa più importante però, e la cosa secondo me essenziale per lo sviluppo a medio termine, è tornare a vincere in Formula 1. Marchionne oggi lo ha ribadito più volte guardando con aria minacciosa Maurizio Arrivabene, capo del reparto corse, minacciosa e scherzosa naturalmente. Dovete vincere perché Marchionne sa che proprio l'esclusività e l'appeal del marchio si basa anche se non soprattutto, oltre che sulle prestazioni e la bellezza delle auto di produzione, anche sul fatto che Ferrari vinca le corse. Quindi questo è un obiettivo. Ha fatto anche una battuta su questo Renzi che ha detto: io appartengo alla generazione che non ha conosciuto Lauda e al decennio peggiore per Ferrari, ma una grande scuderia sa attraversare momenti noi, momenti che non vanno con la forza, la capacità e l'intelligenza di ripartire. Insomma, quindi anche questa battuta. Peraltro, un'ultima cosa, poi ti lascio Andrea perché devo ritornare sulle questioni cinesi. Gli hanno fatto il pelo contro pelo a Marchionne sulla questione di una ricerca di un partner che ha detto non si chiude per quest'anno, ma un partner per che cosa? Tra l'altro, partner per la FCA. Allora, ricordiamo che l'anno scorso si è parlato molto dell'offerta fatta da Marchionne a General Motors. Il fatto che General Motors l'abbia rifiutata con decisione, oggi Marchionne ha detto ci sono arrivate delle proposte, non ha precisato di che tipo, ma ha detto che non sono interessanti e quindi in sostanza ha detto noi dobbiamo concentrarci ora su realizzare il nostro piano, ricordiamo all'orizzonte 2018, se riusciremo a farlo di qui al 2018 Fiat Chrysler diventerà più appetibile per eventuali discorsi di alleanze. Il discorso ovviamente è quanto sia realizzabile questo piano sia dal punto di vista finanziario che industriale, e come andranno i mercati, dalla Cina al Brasile che sta andando male, all'Europa che per fortuna, come hai detto tu prima, soprattutto in Italia, sta andando molto bene. Grazie ad Andrea Malan, che adesso comincia a lavorare davvero, perché ci sono tutte le pagine del giornale da completare su questa storia, sulla grande storia di oggi. Grazie Andrea. Noi velocemente andiamo adesso in pubblicità, credo che ci sia il traffico, se non mi ricordo male, dopodiché ritorniamo alla Cina. Focus Economia. Ancora 10 minuti di tempo prima dei saluti, allora ritorniamo alla questione cinese. Prima abbiamo spiegato con un esperto di mercati finanziari il perché si è determinato questo domino, dal crollo delle borse cinesi di questa mattina all'effetto sui mercati finanziari europei e anche a Wall Street. Adesso andiamo ad approfondire un po' invece la dinamica dell'andamento dell'economia cinese, sulla quale abbiamo speso fiumi di parole per la verità nel corso degli ultimi mesi, quantomeno dal giugno scorso, da quando è cominciato il crollo dei listini di quell'area, lo scoppio della bolla cinese, tutta l'analisi appunto attorno alle questioni di rallentamento economico di quest'area che preoccupa moltissimo, eppure è un'area che continua a crescere nell'ordine del 6% e del 7%. E allora con chi approfondiamo adesso questo tema? Con un altro economista, saluto e ringrazio in collegamento da Parigi Andrea Goldstein, che in questo momento in realtà è casualmente a Parigi, perché lui in realtà da qualche tempo è tornato a vivere in Italia, a Bologna, è consigliere delegato di Nomisma. Intanto buonasera Goldstein e benvenuto. Buonasera a voi e buon anno. Una lunghissima esperienza all'Ocse a Parigi, collabora con il Sole 24 Ore, con l'Aspen Institute Italia, ha scritto moltissimi libri sulle economie emergenti, per cui di Cina sa e sa anche molto. Che cosa c'è di nuovo secondo la sua analisi, dottor Goldstein, che ha portato a questo avvio di anno così forte per i listini cinesi? Perché tutto quello che sul rallentamento dovevamo raccontare probabilmente l'abbiamo raccontato. Abbiamo avuto la nuova statistica sul PMI manifatturiero, decimo calo mensile consecutivo. Ho chiesto prima all'analista che cosa di così sorprendente avesse questa analisi, che tutto sommato non doveva sorprendere, perché mi pare che la direttiva sia tracciata per l'economia di quell'area. Lei che cosa mi dice su questo? Ma indubbiamente il risultato che è stato pubblicizzato oggi non è nulla di sorprendente. Quello che preoccupa è, in un contesto di grande volatilità su tutti i mercati, sia finanziari che mercati reali, è quella che si percepisce essere un po' l'incapacità delle autorità cinesi a trovare il bando della matassa. Sono, come lei diceva, ormai vari trimestri che assistiamo a un rallentamento della produzione cinese, eppure quando i policy maker cinesi cercano di introdurre dei nuovi cambiamenti nella loro stanza di politica, la reazione dei mercati è molto dubbiosa, molto scettica, quindi questo dimostra che c'è un deficit di credibilità in questo momento. Cosa che pure non dovrebbe sorprendere tanto quando si parla di Cina. Ma insomma, diciamo che la Cina ci ha abituato molto bene chi la osserva da lontano, ha abituato ancora meglio chi la vede da vicino, perché non dimentichiamoci che questo è un paese in cui, in ogni caso, pur non essendo ovviamente una democrazia, dove la gente insomma ha qualche idea di come funziona il mondo, inizia ad averla, e c'è un tacito consenso che si rinuncia un po' di libertà individuali in cambio di una crescita elevata. Questa crescita si sta rallentando e di conseguenza l'incertezza domina. Certo. E poi scoppia la bolla appunto del mercato azionario, come è successo da giugno in avanti, quando la Cina ad un certo punto ha detto ai cinesi basta di indebitarvi per investire in borsa, perché era un meccanismo che assolutamente andava frenato. Poi ci sono stati tanti altri fatti, la svalutazione appunto della divisa nipponica ad agosto, e ricordiamo tutti come abbiamo vissuto quelle vacanze. C'è stato anche la presentazione del piano quinquennale di crescita da parte del Partito Comunista Cinese, il suo 13° piano, nel quale non è stato dato un target di crescita, anche questo un altro tema del quale si è discusso molto. Poi in dicembre l'ingresso nel paniere delle valute del Fondo Monetario Internazionale dello Yuan. Insomma, la Cina fa parlare moltissimo di sé, è veramente un'economia che non annoia di certo, ma che è ancora alla ricerca di una sua identità. Non so, dottor Goldstein, cos'altro possiamo dire? C'è anche l'altro grande tema della lotta alla corruzione, la Cina ha scoperto anche il valore di questo. Sicuramente ha scoperto il valore di una clean governance, nello stesso tempo è evidente che la lotta alla corruzione è anche uno strumento che la leadership sta utilizzando per affermare la propria leadership, per l'appunto, rispetto agli interessi che si sono costituiti nel tempo, si sono arricchiti e che quindi avevano iniziato ad avere una certa autonomia. In questo contesto è ovvio che le decisioni di investimento che le imprese cinesi prendono, che spesso e volentieri negli ultimi anni si sono indirizzati anche verso i paesi occidentali, sono rinviate. Pensiamo semplicemente a quello che è successo alcune settimane fa, pochi giorni fa, quando il chairman e fondatore, questo grande imprenditore cinese alla testa del conglomerato Fosun, che tra l'altro ha investito nel Stato Unito in Francia ma anche in Italia acquistando l'immobile ex Crisi Italiana della Piazza Cordusi a Milano, è stato per 3 o 4 giorni preso e messo agli arresti domiciliari o qualcosa del genere, non si sa bene. Ecco, per 4 giorni questo non si sapeva nulla, e quindi le decisioni strategiche che Fosun si pensava avrebbe preso proprio in quei giorni relativi alla quotazione del Club Med sono state sospese. Questo è un esempio di come ciò che succede a Pechino ovviamente abbia ripercussioni che pochi anni fa era difficile immaginare. Infatti, senta, io mi sono ritrovata alcuni dei suoi scritti per lavoce.info, che è questo sito dove voci autorevolissime dell'economia nazionale ed internazionale appunto vengono raccolte. Il sito, lo ricordiamo, fondato da Tito Boeri alcuni anni fa. Lei ne ha scritto uno recentissimo, il 1° dicembre, dove raccontava proprio di queste ultime dinamiche che ci ha appena commentato. Ce n'è un altro interessante del 17 luglio dove ricordava, dove scriveva che il prevedibile scoppio della bolla cinese non avrà un effetto contagio sulle borse internazionali. Questo contagio invece oggi l'abbiamo visto abbastanza chiaramente. È ancora di questa idea, Goldstein? Sicuramente c'è un aggiustamento dei portafogli degli investitori istituzionali, questo è abbastanza evidente. Diciamo che il problema delle parole per l'appunto restano, mentre quelle scritte quantomeno restano, quindi è giusto che dopo 6 mesi si venga. No, magari in quel momento c'era una visione oggettiva. Però, quindi penso che ci sia stata anche dopo l'ultimo anno, che è stato assolutamente positivo sulle borse internazionali occidentali, malgrado gli aggiustamenti che si sono verificati nel tempo, ci sia stata anche in questo momento una tentazione di capitalizzare sui guadagni accumulati nel corso del 2015. Ci sarà sicuramente un effetto contagio. Diciamo che la borsa cinese è molto particolare, è una borsa con la liquidità è molto inferiore rispetto a quelle delle borse tradizionali, i sistemi anche tecnologici sono meno sviluppati, quindi poche variazioni, pochi movimenti hanno poi un effetto sistemico molto immediato e grande sugli indici azionari. I nostri mercati sono più sofisticati. Diciamo che il fatto stesso che sia stato il primo giorno di trading del 2016 probabilmente ha amplificato la reazione, nel senso che c'è stata una grande paura di quello che poteva avvenire in Asia, che si potesse trasformare in una bolla. Non dimentichiamoci però una cosa fondamentale, che anche se l'economia cinese cresce molto meno rispetto al passato, cresce meno su un PIL che è molto molto più grande, quindi il contributo che una crescita del 6% cinese porta alla crescita globale è molto più grande nel 2015 o nel 2016 di quanto potesse essere 15 anni fa un 10%. Quindi i numeri comunque ci raccontano una storia che è più sofisticata, più complessa e in fondo forse più ottimista. Il rallentamento cinese, lo ricordava sempre lei in queste sue analisi per conto della voce.info, appunto si traduce in minor domanda di materie prime. Questo l'abbiamo visto chiaramente anche dal tracollo del prezzo del petrolio che si è registrato negli ultimi tempi, e non solo. C'è una dichiarazione che è arrivata poco fa da parte del presidente della Federal Reserve di San Francisco, John Williams, che in un'intervista alla CNBC ha detto: il rallentamento dell'economia cinese non è un rischio sistemico per gli Stati Uniti, che parole importanti che vengono usate anche per commentare queste giornate. Williams prevede una crescita per l'economia americana per quest'anno del 2-2,5% e assicura che i rialzi dei tassi di interesse saranno graduali. La politica monetaria restrittiva della Federal Reserve disturberà la Cina? Goldstein? Certo, rende più difficile questo momento particolare di liberalizzazione dei mercati finanziari che i cinesi si sono impegnati per il loro bene ovviamente, ma anche per motivi di politica internazionale a realizzare, in un contesto di apprezzamento del dollaro. Questi sono degli effetti che sì, sono desiderabili da un certo punto di vista, ma rendono anche più difficile quel rebalancing della domanda interna, che è l'altro grande obiettivo che si sono fissate le autorità politiche, ancora prima che economiche, in Cina. Quindi è un contesto più difficile per una classe dirigente che ha dimostrato ovviamente grande capacità, perché sono ormai 35 anni che la Cina cresce, e questo va soprattutto a merito appunto di tutti i cinesi, dei policy makers e dei laboratori, ma in questo momento stanno affrontando dei terreni che per loro sono sconosciuti, quelli appunto del mercato vero e proprio, il mercato vero e proprio soprattutto per determinare i prezzi delle attività finanziarie, della moneta e delle attività finanziarie. Quindi in questo contesto, di nuovo, c'è il rischio che facciano degli errori, c'è il rischio che non sappiano comunicare. Non dimentichiamoci che il mestiere di un banchiere centrale è soprattutto quello di sapere comunicare bene. Grazie, grazie ad Andrea Golsa. Mi stavo intanto un attimo distraendo perché c'è un ascoltatore che dice che ho definito nipponica la valuta cinese. Non mi sembra, ma probabilmente sarà stato un refuso. Luca, abbia pazienza. È dalle 8 di questa mattina che sto qua dentro, mi è scappata anche questa. Grazie Goldstein. Buon anno. Spero di sentirla presto. Grazie molte. Gli ultimi minuti, anzi un minuto di tempo assegnato brutalmente a Vittorio Darold del Sole 24 Ore, che per una volta tanto non intervistiamo sulla Grecia, un miracolo, ma addirittura sulle nuove tensioni in Medio Oriente, su questa nuova tensione fortissima fra Arabia Saudita ed Iran. Raccontaci le ultime novità, Vittorio, soprattutto le implicazioni di carattere economico-finanziario. Ti do un minuto di tempo. Sì, esattamente. Questa è una nuova crisi che nessuno si aspettava, perché quella che possiamo chiamare in gergo un cigno nero, nel senso che tutti erano rivolti ad altre possibili crisi, e invece è nata questa crisi che è naturalmente religiosa, perché c'è uno scontro in atto tra gli sciiti e i sunniti. Molto forte. Naturalmente poi c'è uno scontro anche geopolitico per il controllo del Golfo Persico, perché è della regione, della leadership nella regione, perché appunto l'Iran è il forte contrasto con l'Arabia Saudita per il controllo del passaggio di tutto il petrolio che passa per quasi il 40% in questo Golfo Persico, e poi uno scontro economico perché l'Iran, se le sanzioni verranno tolte come sembra, dovrebbe rientrare sul mercato con almeno dal 500.000 a 1.000.000 di barili al giorno. Questo porterà quindi a un nuovo abbassamento dei prezzi, cosa che naturalmente l'Arabia Saudita non auspica di certo, perché ha avuto un tracollo anche dei ricavi da questo. Non riusciamo ad andare oltre, Vittorio. Ti lascio domani a Simone Spezia. Grazie, buona serata a tutti.